Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, mi chiamo Francesco e sono genitore di una dolce bambina di 4 anni. Le scrivo perché sono preoccupato per il futuro di mia figlia, in merito a un fenomeno che si sta divulgando, forse senza controllo. Mi è capitato più di una volta di sentire genitori che adoperano psicofarmaci per occuparsi di problemi di comportamento, considerati disturbi, dei propri figli. Il fatto eclatante è che i disturbi sono manifestazioni normali in un bambino o in un adolescente. Scarsa concentrazione nello studio e troppa vivacità sono diventati i mali da curare con una pillola. Questi mali mi hanno accompagnato in modo marcato per anni e ora sono un imprenditore di 30 anni, sposato, padre e che conduce una vita serena. Metà dei miei compagni di scuola soffrivano dei miei stessi mali e sono, adesso, persone nella norma. Ho visto l'abuso dei farmaci su mia nonna e altre persone anziane. Quasi tutte le sere si possono vedere, alla TV, le truffe a spese della società nell'ambito della sanità. Si può pensare: queste cose succedono tutti i giorni in svariati campi, ma quando si tratta di affari di milioni di euro a spese della salute dei bambini, questo, in quanto cittadino ed essere umano, non mi va giù. Si può chiedere il parere dei lettori e degli ascoltatori in merito a questa dubbia teoria dei disturbi mentali in bambini considerati, una volta, con l'argento vivo addosso. Se si leggono le controindicazioni dei farmaci, possono tremare le gambe a un genitore, il quale, spesso, fidandosi della prescrizione, non legge attentamente gli effetti negativi di questi potenti medicinali. Per non parlare del fatto che nostro figlio può essere facilmente considerato un malato mentale. È un argomento che a me sta a cuore molto, dato che ho scoperto che alcuni genitori non sapevano che i propri figli venissero etichettati come affetti da svariati disturbi a scuola, a loro insaputa. Caro direttore, caro ascoltatore, vi dico che d'ora in poi siamo costretti a controllare i nostri figli anche a scuola, l'ultimo ambiente che ritenevamo sicuro. Ambiente trasformato in un vivaio di potenziali pazienti. Francesco. Caro Francesco, lei solleva un problema molto importante, un problema che in fondo è alla base della nostra umanità. Come giudicare i bambini e come intervenire di fronte alle loro intemperanze? Le devo dire che penso che una delle malattie del mondo contemporaneo sia proprio il ricorso agli psicofarmaci e comunque l'abuso di farmaci di ogni ordine e tipo. Quasi che le persone di fronte ai problemi personali e sociali cerchino di rifugiarsi nella moderna alchimia delle farmacie per cambiare gli stessi caratteri delle persone. Sinceramente penso che nel 99% dei casi l'indisciplina dei bambini non dipenda dai bambini stessi, ma da un'alterazione, da un disagio nei rapporti con gli adulti. Il più delle volte si è di fronte a tensioni derivanti da quello che gli antichi semplicemente chiamavano la mancanza d'affetto. Certo, non è facile, anzi quasi impossibile, ricreare situazioni di normalità familiare quando i legami si spezzano e l'amore lascia il posto a tensioni e insofferenze. Ma in questi casi i rimedi rischiano di essere ben peggiori dei mali. I psicofarmaci ai bambini sono una dichiarazione di fallimento degli adulti. Sono la strada aperta, poi, alla droga, all'alcol, in una società che sembra freneticamente protesa a dimenticare tutto, perdendo così il valore profondo della propria umanità. Questa era una lettera selezionata tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci. Thank you.